Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata di Overbooking sui 102.2 di Radio Sandonà in compagnia di me, medesimo Alvise. Un ringraziamento particolare a Daniele che ci assiste in regia, un saluto a Matteo che purtroppo non può essere qui con noi questa sera, ma c'è un gradito ritorno, ossia Alice che ci accompagnerà con la sua voce nella lettura del romanzo di questa sera, che è Il piccolo isolazionista, scritto da Tommaso Labranca e pubblicato da Castelvecchi nel 2006. Chi è Tommaso Labranca? Tommaso Labranca è uno scrittore, autore televisivo e più recentemente conduttore radiofonico, nato a Milano nel 1962. Tommaso Labranca, una figura assolutamente poliedrica, di cui mi piace ricordare, a parte Il piccolo isolazionista, una serie di altri romanzi e saggi, tra cui appunto mi viene da citare Andy Warhol era un coatto, uscito sempre per Castelvecchi, questa volta nel 94, e Estasi del pecoreccio, anche questo per Castelvecchi. Accanto a questa attività di scrittore, come dicevo, sia di narrativa che di saggistica, Tommaso Labranca tra l'altro è anche un traduttore, anzi inizia la sua carriera come traduttore, Tommaso Labranca appunto è un soggetto assolutamente poliedrico. Mi piace citare una sua iniziativa nel 96, pubblica per Castelvecchi un esperimento di letteratura campionata. Cos'è la letteratura campionata? Sostanzialmente si tratta di un esperimento in cui viene applicato alla letteratura un criterio simile alla musica remixata, ossia Labranca affida alcuni suoi scritti ad una ventina di altri autori che li riscrivono, quindi li mixano in un certo senso, e questi scritti poi troveranno appunto spazio nella branca remix. Accanto appunto all'attività di scrittore, la branca scrive anche per svariate fanzine e si occupa in prima cartacee e poi digitali, e si occupa in particolare anche di trash. Ci sono una serie di iniziative che mi piace ricordare e che in qualche modo sono poi collegate a doppio filo al contenuto di questo Il piccolo isolazionista. Quella che più si avvicina al contenuto del piccolo isolazionista è sicuramente Ultra Void. Ultra Void è un'iniziativa, un progetto di Tommaso Labranca che consiste nel pubblicare mensilmente contributi suoi o di lettori del suo sito, a quel tempo era il suo sito, ossia lo stesso Ultra Void, dei contributi che potevano essere degli scritti o soprattutto contributi fotografici a cui Labranca aggiungeva proprio un minimo commento. Perché è importante questo? Perché i contributi fotografici che vengono inseriti all'interno di Ultra Void richiamano i contenuti fotografici che troviamo nel piccolo isolazionista. Il piccolo isolazionista riguarda la vita raccontata in prima persona di un anacoreta in un certo senso postmoderno, ossia di una persona che vive in una metropoli italiana, possiamo pensare a Milano, a Torino, eccetera, eccetera, in una periferia, e vive completamente isolato dal mondo. Anzi, non perché il mondo voglia isolarsi da lui, ma perché lui pone dei confini, delle barriere che gli precludono il relazionarsi con il mondo esterno. Mi piace ricordare che Il piccolo isolazionista è, per come lo si può vedere, un romanzo su tre dimensioni. Innanzitutto abbiamo una dimensione scritta in cui Tommaso Labranca ci rende partecipi del pensiero e di quello che è il manifesto programmatico di un piccolo isolazionista. Dopodiché abbiamo dei contenuti fotografici che ci raccontano attraverso le immagini quello che è la periferia urbana e quello che è il mondo come ce lo racconta il piccolo isolazionista, e adesso andremo con le parole di Alice ad approfondire una parte di questo discorso. E infine Tommaso Labranca aggiunge alla fine del suo libro una soundtrack che potrebbe accompagnare il testo e più in generale la vita del piccolo isolazionista. Ora, con l'aiuto di Alice, andiamo a leggere un primo estratto di quello che il piccolo isolazionista considera essere parte integrante della propria esistenza. L'assenza di comunicazione interpersonale è il primo obbligo del piccolo isolazionista. Subito dopo segue l'espressione incomprensibile. Infine è altrettanto importante l'anaffettività. I Sigur Rós sono quindi piccoli isolazionisti perfetti. Cantano vocaboli in una lingua inventata, e anche se non fosse inventata sarebbe islandese, quindi incomprensibile. E sono certo, voglio essere certo, che quei fonemi non cantano l'amore. Quindi spero che anche essi avranno una vita anaffettiva e molto spazio sul corpo dove non si tatueranno mai alcun nome in katakana. Probabilmente, in qualche parte del mondo, qualcun altro è orgogliosamente a letto in un sabato sera e ascolta i Sigur Rós. Chiunque egli sia, lo chiamo fratello. E se è una donna, ancora più a ragione, la chiamerò sorella, perché Sigur Rós è un nome ispirato alla sorella di un membro della band. Chiamo fratello anche chi lava l'automobile in inverno alle 3:15 presso l'impianto Self, al chilometro 2.5 della strada statale numero 3, Paullese Nuova. Tornando da un itinerario nel nulla, andando verso casa, passo a quell'ora davanti a un autolavaggio Self sempre aperto. C'è qualcuno alle 3:15, e stando fermo al semaforo lo intravedo dall'altra parte della strada, mentre con la lancia in mano spruzza acqua saponata bollente contro la propria vettura. L'acqua calda, nel clima rigido notturno, crea una nuvola di vapore resa luminescente dai riflettori bianchi del Self. Se mi concentro sul freddo e sul CD dei Sigur Rós che suona nel lettore, mi pare quasi di essere in Islanda e il vapore diventa quello dei geyser e non quello dell'autolavaggio paulese. Il piccolo isolazionista resta qui e si ricostruisce una Islanda immaginaria, perché sa usare la fantasia, mentre il resto del mondo annuncia ai colleghi @macchinadelcaffè.it il prossimo viaggio in Islanda, durante il ponte e poi una volta là, davanti a un geyser, non riesce a pensare che alla nuvola di vapore che esce dall'autolavaggio in presenza di inversione termica e ne prova segretamente nostalgia. La nuvola sale dall'impianto ed è significante di presenza nell'universo. Racchiude un'essenza particolare che trascura la canonizzazione degli orari, dei luoghi, delle esperienze, dei rapporti umani. È un segnale che non aspetta risposta, perché è diretto a un altro eventuale piccolo nucleo isolazionista in movimento. Per questo non risponde a quell'entità sconosciuta alle prese con la cera autolucidante, in ore inusitate, nemmeno lanciando un breve lampeggio degli abbaglianti. Soddisfatto di non essere solo nell'universo, riparto quando il semaforo diventa verde. 102.2 Radio Sandonà, rieccoci in compagnia di Overbooking. Vi ricordo che potete intervenire in trasmissione telefonando allo 0421 560993 oppure mandando un'email a radio@radiosandona.it. È sempre possibile scaricare o ascoltare in streaming questa puntata, come tutte le precedenti puntate di Overbooking, facendo riferimento al nostro sito, che è www.bloverbooking.wordpress.com. Qui potete trovare una veloce presentazione di tutte le nostre puntate, quindi del libro o della tematica che andiamo a trattare, e appunto il file in podcast della puntata medesima. Inoltre potete trovare degli aggiornamenti su tutte le iniziative che ci coinvolgono come redazione di Overbooking o più in generale come Radio Sandonà. Questa canzone che siamo andati a sentire era dei Boards of Canada e si tratta di una canzone suggerita da Tommaso Labranca, autore del libro di questa sera che è Il piccolo isolazionista, una canzone, dicevo, suggerita nella soundtrack finale, che è un, diciamo, un accompagnamento musicale a quella che è la vita del piccolo isolazionista. C'è molta musica in questo libro di Tommaso Labranca, abbiamo sentito parlare dei Sigur Rós. All'interno del libro troverete disquisizioni su svariati generi che vanno dall'elettronica alla wave. C'è un discorso lunghissimo sugli Smith e poi sulla carriera solista di Morrissey. Gli ABBA ritornano a più riprese e vengono discussi, ma più in generale si spazia al funk, si spazia alla musica dei 70s, eccetera eccetera. Mi piace ricordare invece qualcosa che riguarda la musica islandese. Si parlava appunto dei Sigur Rós, per ricollegarla a un altro dei progetti paralleli che hanno coinvolto Tommaso Labranca. Tommaso Labranca che nel 2008 ha portato avanti un progetto musicale chiamato Ansi Samur o Samur, non so se lo pronuncio bene, che è un progetto musicale filo islandese in cui Tommaso Labranca si esibiva per pochi eletti, diciamo, vestito in lana in modo da richiamare una finta origine islandese, e durante queste esibizioni filo islandesi in qualche modo suonava lo xilofono e emetteva dei vocalizzi. Questo per far ancora una volta risaltare la poliedricità di Tommaso Labranca. Ma non solo, per andare a ricollegarci con quelle che sono le tematiche più generali dell'attività di scrittore di Labranca, se messe in relazione con il contenuto del piccolo isolazionista. Nel piccolo isolazionista, abbiamo detto, è un manifesto di come vivere in qualche modo isolati e avulsi da quella che è l'attività relazionale umana. In questo caso verrebbe da parafrasare Aristotele e dire che in questo caso ogni uomo è un'isola, o almeno il piccolo isolazionista è un'isola. E adesso, con l'aiuto di Alice, andiamo a vedere un po' più approfonditamente qual è la filosofia di questo piccolo isolazionista. Il piccolo isolazionista ha una memoria particolare. Ricorda nei dettagli eventi minimi e inutili e personali. Anche gli eventi più gravi sono ridotti a un elenco di cose viste in TV. Cosa gli rimane delle esperienze collettive, degli eventi che cambiano qualcosa nel mondo? Solitamente poco e, interrogato, non sa dare una valutazione dei fatti. Non sa nemmeno ricordare cosa stesse facendo quando... Però si domanda... In che misura eventi simili influiscono davvero su di noi? Dopo quanto tempo quegli eventi vengono dimenticati? Quanti hanno dimenticato oggi che nel 1989 cadeva il muro di Berlino? La Germania si riuniva e nasceva una nuova prospettiva di turismo. Improvvisamente cambiava il vento in Europa e le ormai noiose spedizioni cannarole nei coffee shop nederlandesi o le missioni scopaiole nei campeggi ellenici venivano spazzate via dal nuovo mast. andare a scalpellare il vecchio muro. Gente che a casa propria affrontava di malavoglia anche l'applicazione di un Fischer del 6, non perse tempo e marciò su Berlino armata di martelli e scalpelli. Questi ultimi prendevano il posto delle falci. Chi tra i grandi viaggiatori post-chatwiniani non conserva nel proprio album una fotografia scattata davanti ai resti graffittati del muro con in mano gli strumenti della libertà? Oggi, con i nuovi e continui mutamenti nello stampo del mondo, quella è già storia dimenticata e quelle foto cartacee giacciono in qualche cassetto, mentre sui desktop brillano le immagini digitali del nuovo terroturismo. Posa in Bermuda davanti a Ground Zero. Mi rendo conto di essere triste perché non posseggo nessuna foto di quel genere. Il mio diario di viaggio è una raccolta di pagine bianche. Al massimo una raccolta di ore passate a guardare in televisione gli altri che cambiavano il mondo. Potrei fotografarmi ora, qui, all'area di servizio San Giuliano Ovest, ma sarebbe una immagine senza alcuna forza evocativa e non direbbe nulla di me ai posteri, se non della mia inutile passione per le tangenziali. Lo ammetto senza problemi, senza alcuna vergogna. Mi piace quello che vedo, quello che percorro e respiro. Mi piace starmene qui, sull'anello più esterno di Saturno, a inebriarmi di gas di scarico, a cercare ispirazione nelle luci industriali, angosciato dal tempo che butto via, dalle pressioni di chi si aspetta qualcosa da me nei termini previsti. Mi trovo a mio agio soprattutto quando vedo il cielo che inizia a oscurarsi. In fondo, l'unico diritto che mi arrogo è quello di rinchiudermi in un mondo fatto di crepuscoli, di suoni elettronici e di assenze umane. Gli ottusi procedono sempre in gruppo. Quando le isole crollano, non hanno argomenti. What do you do? What do you do in the bath? Lemon Jelly in the Bath, un'altra delle tracks che ci sono suggerite dal buon Tommaso Labranca, l'autore di questa sera, con il suo Il piccolo isolazionista, in cui Tommaso Labranca raccoglie una serie di pensieri per quel che riguarda l'essere in qualche modo eremiti e anacoreti in una società industrializzata. Tommaso Labranca ci dimostra con questo romanzo, che è molto intimista in qualche modo, raccoglie più che altro riflessioni piuttosto che descrizioni, e quindi tende un po' a guardarsi dentro il protagonista come l'autore stesso. Diciamo che in questo romanzo Tommaso Labranca ci dimostra che è possibile, ossia la nostra società permette ad un individuo, sebbene formalmente perfettamente integrato in un territorio, in una società, perché il piccolo isolazionista ha un lavoro, ha una casa in un palazzo in cui ce ne sono molte altre, quindi ha per forza dei contatti umani, lo stesso riesce a essere perfettamente distante da tutto quello che è società, da tutto quello che è altra umanità al di fuori di se stesso. Leggendo Il piccolo isolazionista, mi è tornato in mente una dei primi lavori di Uhlenbeck, un autore francese che diventa poi famoso per le particelle elementari, ma vi consiglio un'opera, diciamo in qualche modo giovanile, di Uhlenbeck, che è il controllo della lotta. In questo controllo della lotta abbiamo una scena abbastanza simile, che poi però sfocia nella pazzia del protagonista, con poi dei risvolti drammatici. Invece il piccolo isolazionista di Labranca si limita a guardare il mondo come guarderebbe la TV, in sostanza. Si limita a essere spettatore della sua vita e in qualche modo a non entrarci in maniera, possiamo dire, propositiva. Vi ricordo sempre che per intervenire in trasmissione potete chiamare lo 0421 56 0993 o mandare un fax allo 0421 56 0994, sempre poi in funzione della nostra email radio@radiosandona.it. Ne approfitto anche per invitarvi a andare a controllare il sito della radio www.radiosandona.it, in cui troverete tutta la programmazione e tutte le attività che ruotano intorno a Radio Sandona, a più ampio respiro, quindi non solo limitatamente a quello che è overbooking, ma tutta la programmazione e le iniziative di cui Radio Sandona si fa portavoce. Torniamo al piccolo isolazionista, che, come vi dicevo, può essere consigliato, secondo me, per almeno tre motivi. Come vi anticipavo all'inizio, è un romanzo su tre dimensioni. Diciamo una più legata strettamente allo scritto, una visiva, perché si avvale di un set fotografico realizzato da Italo De Marco, intitolato Late Night Cappuccino, dove trovate delle panoramiche urbane quasi tutte notturne o serali, che poi richiamano quello che è il contenuto del libro, e come appunto vi anticipavo in precedenza, la soundtrack finale, che è composta da 37 pezzi, quasi tutti di elettronica, che spaziano dal techno all'house all'ambient, qualcosa come appunto il Lemon Jelly e come prima il Borders Canada l'abbiamo sentita, qualcosa andremo a sentirla con Moby, ma questa soundtrack può dare un sottofondo a quello che è poi il pensiero del piccolo isolazionista. In secondo luogo, il romanzo ci piace perché, secondo me, è molto più difficile descrivere emozioni, sentimenti e stati d'animo rispetto che e descrivere qualcosa di reale, qualcosa che si vede. E qui Tommaso Labranca si cimenta per tutto il libro in questa, diciamo, raccolta di riflessioni, in questa specie di zibaldone, e ne esce una cosa assolutamente godibile, secondo me. In terzo luogo, perché è sempre bello rinnovare una ampia passione per quelle che sono le grandi arterie stradali, le superstrade, soprattutto in ambiente notturno. Nel salutarvi con l'ultima lettura affidata ad Alice, andiamo proprio a sentire cosa il piccolo isolazionista apprezza di una panoramica urbana stradale sul far della sera. Le strade satellitari sono quelle che, viste in una immagine fissa, non fanno pensare ad alcun luogo preciso. Sono semplici arterie, ampie e rettilinee, con le carreggiate separate da file centrali di lampioni altissimi e attraversate da sporadici veicoli di cui non si indovina il modello, la targa, il conducente. Sono satellitari perché è come se non appartenessero alle comuni classificazioni etnico-geografiche terrestri. Forse solo sul lato oscuro della Luna ci sono strade simili. Sono la rappresentazione di una metafisica di periferia. La metafisica è lunare. Una metafisica esente da ogni stucchevole riferimento storico-artistico fatto di archi, colonne, chiese, portici silenti, piazze deserte e statue immobili. Un tardo Novecento occidentale o pseudo-occidentale, quello che si respira in tutte le parti di mondo asfaltato. Antelami, Bernini e maestri Comacini sono relegati sotto le luci gialle di centri antichi, facilmente identificabili, dove posano in Bermuda e marsupio, fruitori fine settimanali della sindrome di Stendhal. Le strade satellitari sono l'unica vera espressione dell'international style ostico, antistorico e antinaturalistico. L'oscurità che le sostiene, sui due lati, azzera i dintorni, le colline, i laghi o i deserti. Alle 23:15 percorre un tratto di strada satellitare all'origine o alla fine. Dipende da dove la si guarda. Della strada statale numero 33 del Sempione, comunque a pochissimi chilometri dal cartello Milano, indovinando sulla sinistra il Gran Casa. Parrebbe di essere ovunque nel mondo asfaltato. L'immagine che ho di fronte è identica a quella delle arterie illuminate di Rabat, Teheran e Baghdad, strade satellitari anche perché appaiono via satellite su emittenti arabe che le mostrano con orgoglio come sfondo continuo a inviati giornalisti dei loro inesauribili telegiornali. I TG arabi non mostrano mai piramidi, moschee, obelischi che lasciano volentieri alla paccottiglia iconografica dell'all-inclusive da Mar Rosso. Sarà per orgoglio di modernità o desiderio recondito di occidentalizzazione. O forse è un legame molto più antico con le basi stesse dell'arte islamica, che non trova noioso ripetere un fregio geometrico per decine e decine di metri, senza un solo accenno iconografico a creature viventi. Intanto, un qualsiasi usufruitore artistico cattolico e post-conciliare avrebbe già sbadigliato alla seconda ripetizione, affamato di belle madonne e santi sanguinolenti. Il terrore degli autori televisivi di annoiare il telespettatore con interventi negli show superiori a 2 minuti e la speculare frenesia da telecomando che porta a cambiare continuamente canale sono entrambi figli della disabitudine a meditare sul simbolo e dell'incapacità di apprezzare la figura non umana propria del cattolicesimo che si nutre di affreschi, statue, santini, medagliette, ospiti, idoli e vallette dalla scadenza più rapida di quella dello yogurt. E questo era il terzo ed ultimo estratto dal libro di questa sera, Il piccolo isolazionista di Tommaso Labranca, edito, vi ricordo, da Castelvecchi Editore nel 2006. Anche noi viviamo un po' nel terrore di annoiarvi parlandovi oltre i 2 minuti, quindi mi accingo a salutarvi il più velocemente possibile, non prima di aver ringraziato Daniele che è stato con me in regia per tutta la puntata e silenziosamente mi sopporta e Alice per, come sempre, prestare la voce a questo programma. Dopodiché, ancora una volta, bloverbooking.wordpress.com per sentire in streaming o scaricare questa trasmissione di Overbooking e tutte le nostre precedenti. Un'ultima nota personale per questo piccolo isolazionista di Tommaso Labranca. Avevo detto tre motivi per consigliarvelo, ve ne dico quattro. Se vi piace Moby come piace a me e se in generale vi piace la musica come piace a me, è un libro che mi sento di suggerire caldamente. Nell'iPod del piccolo isolazionista, che sta anche nella copertina curata da Castelvecchi, ci sta almeno, dice la branca, un giga e qualcosa della discografia di Moby. Io questa cosa mi sento di condividerla e sostenerla come un po' una panacea a tutti i mali del mondo, quindi vi saluto, vi rimando ad una nuova puntata di Overbooking la prossima settimana e andiamo a scegliere un pezzo di Moby non incluso nella soundtrack, che ci era presentata dalla branca, ma che penso potrebbe anche piacergli. Questa è Slow Light, tratta dall'ultima fatica discografica di Moby, Wait for Me.